tra i vari comportamenti dell'uomo sottoposti alla morale, quello dettato dal forte e riluttante impulso sessuale è ormai totalmente fuori controllo. L'uomo nel campo della sessualità è talmente libero al punto da non essere più in grado di comprendere la pericolosa forza distruttrice di questo naturale impulso, dato che ogni giorno notizie diffuse da radio, televisione e da cronache locali mettono in evidenza che ovunque il sesso miete le proprie vittime come un leone non domato in un recinto di pecore. Come viene fatto notare, nelle mura domestiche si consumano il numero di maggiori di abusi, a spese soprattutto delle bambine. Padri e fratelli amorevoli la sera si trasformano in mostri, violentando le bambine sistematicamente. Uomini religiosi che professano di credere in un Dio di amore giusto e santo esprimono una loro distorta sessualità con giovani e meno giovani. Non di rado, a causa di passioni amorose, vengono perpetrati i più assurdi e violenti omicidi, nei quali a volte vengono sterminate intere famiglie. Giovani che in preda a passioni giovanili ammazzano la ragazza della quale si dicono innamorati, soltanto perché questa li rifiuta o decide di interrompere la relazione amorosa. Spesso la società guarda e ascolta attonita certi cruenti e spietati episodi amorosi senza darsi una spiegazione, e scotendo la testa mormora sommessamente commenti moralistici senza senso. In effetti, ormai la stessa società, seppure inconsciamente, non ha più nessun limite morale, perché è proprio nell'ambito sessuale che si trova la sua più grande macchia, dato che adulteri, tradimenti, scappatelle sono considerati atteggiamenti più che normali, quando addirittura non sono stimati delle virtù. La coppia è talmente coinvolta in una pratica distorta della sessualità al punto che ogni giorno aumentano i divorzi e le separazioni, non solo come risultato di una impossibilità di convivenza, ma perché l'erba del vicino è sempre migliore. La sessualità ha talmente invaso negativamente la mente delle persone che da vario tempo, riguardo al matrimonio, sono sorte altre problematiche nel campo della fede. Difatti, oggi più che mai, si devono affrontare questioni relative al matrimonio misto. Si sta cercando di acquisire una cultura interconfessionale per andare incontro ai bisogni di coloro che per ragioni di cuore e soprattutto per ragioni sensuali non riescono più a rimanere dentro a dei principi morali trasmessi da secoli. Pochi, anzi pochissimi, hanno compreso che se la sessualità non è sottoposta o limitata a delle regole, essa non solo danneggia tutto ciò che trova, ma fa da padrona sottoponendo uomini e donne alle sue necessità. Molte sono le ragioni che rendono l'uomo schiavo della sessualità, ma molto probabilmente una delle maggiori motivazioni risiede nel fatto che il genere umano ha elevato la sessualità al livello di una divinità, e come tale deve essere obbedita ciecamente. Non a caso popoli antichi e religioni moderne rendono un culto alla sessualità, senza rendersi conto che quando la sessualità viene onorata senza riserve e obbedita incondizionatamente, essa si trasforma in demone. Questo spiega perché sotto l'influenza dell'erotismo la razionalità viene sottoposta e disarmata, fino a trovarsi impotente a condurre un essere razionale a compiere atteggiamenti che sarebbero normali senza l'impulso sessuale. Vi è una storiella, molto sicuramente scaturita da un fatto vero, che esprime molto bene quanto la sessualità possa controllare un essere razionale. Un padre di famiglia si lamenta con il suo dottore perché ha troppi figli da sfamare e vorrebbe avere da lui qualcosa perché sua moglie non rimanga incinta. Il dottore, dopo un breve riflessione, consiglia all'uomo di pensare a quanti figli ha da sfamare ogni volta che ha un rapporto sessuale con la moglie. Il marito, tutto soddisfatto di questa possibilità, torna a casa, ma dopo qualche mese è di nuovo dal dottore per lamentarsi perché sua moglie aspetta un altro bambino. Il dottore chiede all'uomo se ha ubbidito al suo consiglio e l'uomo, un poco scoraggiato, rispose: «Cosa vuole, dottore? In quel momento io penso di poter mantenere una ventina di figli». Al di là della battuta, al di là della storiella vera o falsa, una cosa dobbiamo ammettere: l'impulso della sessualità è in grado di rompere ogni steccato di regole e di principi. Quando si prova l'impulso sessuale sembra che ogni cosa sia lecita pur di soddisfarlo. E così deve essere perché altrimenti non si spiegherebbero certi comportamenti. Parlavo con una giovane che si professava credente riguardo al rapporto con il suo fidanzato, e lei mi faceva presente la sua libertà di esprimere le sue effusioni. Le feci presente che le effusioni amorose provocano un certo eccitamento che produce sofferenza nell'uomo quando egli non può soddisfarlo in modo lecito, e che a volte costringe l'uomo alla masturbazione. La ragazza mi assicurò che il suo fidanzato non si masturbava, e di fronte alla mia incredulità la ragazza mi assicurò che il suo fidanzato non si masturbava perché questo era un compito che eseguiva lei. Forse sarà la mia età non più giovanile, forse sarà che quando ero giovane di queste cose non se ne parlava. Ma sentire che di norma molti giovani credenti si masturbano a vicenda mi lascia senza parole. Sembra che anche i giovani credenti di oggi non abbiano né regole né limiti nel campo sessuale, anche se non tutti hanno gli stessi principi. Alcuni giovani credenti hanno rapporti sessuali completi, senza porsi il problema se questo sia giusto oppure no. Altri, avendo il principio di rimanere vergini fino al matrimonio, trovano giusto praticare ogni forma di giochi o pratiche sessuali, quali, per esempio, la masturbazione o il rapporto orale. I giovani che perdono la verginità prima del matrimonio lo fanno perché sostengono che nella parola di Dio non vi è nulla che vieti i rapporti prematrimoniali, ma essi dimenticano volontariamente che nella parola di Dio non vi è nulla di preciso, perché all'epoca nella quale furono redatti i libri che la compongono non esisteva neppure il problema. E come dire che nella Bibbia non vi è nulla in merito al limite di velocità delle macchine. È ovvio, non vi erano le macchine, così sostenere che nella parola di Dio non vi sia nulla di esplicito in merito alla verginità prima del matrimonio, per poi ritenere di avere il diritto di avere rapporti prematrimoniali, non ha senso, perché nella cultura ebraica due giovani fidanzati non si vedevano fino al giorno del loro matrimonio, e molto difficile stabilire delle regole quando non esiste il problema, proprio perché i fidanzati nella cultura ebraica non si vedevano fino al giorno del loro matrimonio. Le problematiche se i rapporti prematrimoniali fossero leciti o se le varie espressioni sessuali siano concesse e fino a quale punto non erano neppure tenute in considerazione. E la libertà che hanno i giovani di oggi a porre dei quesiti che non trovano risposta nella parola di Dio. Perciò va da sé che i rapporti prematrimoniali, come ogni altro atto sessuale praticato prima del matrimonio, i quali nella Bibbia sono definiti fornicazione meno, devono essere considerati. Ma anche se questo aspetto dovesse essere rifiutato dai giovani, vi è un'altra verità che deve essere presa in considerazione, e cioè quello della castità. L'Apostolo Paolo, parlando in senso simbolico a dei credenti riguardo al rapporto esistente tra Cristo e il credente, ha usato un'espressione che entra con prepotenza e autorità nel nostro tema. Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. 2 Corinzi 11.2. Il profondo desiderio di Paolo nei confronti dei credenti era quello di presentarli a Cristo nella santità più assoluta. Ardeva dal desiderio che i credenti fossero esenti da ogni contaminazione di carne e di spirito, e per questo egli prese il paragone di una casta vergine. Da notare, Paolo non si è limitato a paragonare la condotta cristiana ad una vergine, ma ad una vergine casta. In questo secolo alquanto corrotto si è perso il senso della parola casta. Se poi questo termine è applicato ad una vergine, rende il significato di vergine molto più marcato. Il vocabolario definisce casto che si astiene, con atti e con la mente, dai piaceri sessuali, sia in modo assoluto, una fanciulla, una vergine, sia con l'osservanza di precise norme morali, come per esempio la fedeltà coniugale, sposa-moglie. Dunque, il termine casta riferito alla vergine è molto più significativo del termine vergine stesso. Mentre il termine vergine meno, per una nostra distorta opinione meno, porta a pensare ad una integrità fisica conservata soltanto in relazione al coito nel suo senso più ristretto, Il termine casta si riferisce ad una assoluta integrità, sia di pensiero sia di contatto fisico nell'ambito sessuale. Così, mentre i giovani di oggi si interrogano in merito a quale pratica sessuale sia lecita durante il fidanzamento, e nell'attesa di una risposta si masturbano a vicenda mediante ogni tipo di pratica erotica al di fuori del coito, il quale provocherebbe la rottura dell'imene e la conseguente perdita della, tra virgolette, verginità femminile, l'ordine imposto da Dio alla Vergine di essere casta, toglie a chi lo coglie ogni minimo dubbio. Se il termine casta si riferisce ad un'assoluta astensione da ogni espressione sessuale, sia morale sia fisica, allora, meno se siamo onesti e coerenti rispetto ai termini, nessun giovane che non rispetti tale principio arriva casto al matrimonio. Una cosa è esprimere il proprio affetto con il bacio quando già si sono decise le nozze, e ripeto, quando già si sono decise le nozze. Altra cosa è invece, come fanno i giovani di oggi, praticare il sesso e furbamente lasciano vergine la ragazza, privandola però della castità persino nel luogo destinato alla defecazione. I giovani di oggi meno, e purtroppo dobbiamo dire anche molti credenti meno, hanno perso di vista la castità come un obiettivo morale, un obiettivo presente nella cultura ebraica e anche in quella italiana, in certi periodi della storia. Perché allora i giovani sono così deboli e sottoposti agli impulsi sessuali? Perché la voce dell'istinto della sessualità è troppo forte, perciò, per poterla vincere, non rimane che obbedire ad un'altra voce ancora più potente, tale da mettere gli istinti sessuali nei giusti confini. Questa voce sono i comandamenti di Dio che impongo al giovane e alla giovane non solo di essere vergini ma anche casti. Non vi sono alternative. Visto e considerato che l'impulso sessuale una volta obbedito non può essere fermato, è saggio e opportuno mirare alla castità. Quando l'Apostolo Paolo disse che è bene per l'uomo di non toccar donna, 1 Corinzi 7.1 voleva dire proprio questo. L'ordine di Dio non è quello di non sposarsi, ma di non dare avvio a nessun impulso sessuale prima del matrimonio. Se qualcuno poi lo vuol fare, lo faccia. Ma sappia che molto difficilmente rimarrà vergine. E se anche una ragazza dovesse tornare vergine, grazie al bisturi per cancellare ogni traccia fisica delle esperienze sessuali, non potrà però mai più arrivare casta al matrimonio. Dio non si può ingannare. Settembre 2006. Ellero.